Vedi questo cielo, è nero da paura. Così è la mia vita, sfiorata l'avventura. Vado in mare verso il largo, niente terra all'orizzonte. La mia nave sta affondando, mi calpestano le onde. Stringo forte la mia cima, lo sguardo verso il mare. Mentre salgo su in cima, penso che non sono tale. La vista si è annebbiata, troppe poche le idiotrie. La mia auto impantanata, quelle curve tutte mie, tutte pericolose. Mi schianto sulle rose, inizio a pensare, pensare. Maria, Maria, Maria, Maria su una via. Maria, solo mia. Maria, miracolosa tu. Voglio immaginare, ma questa è la realtà. Pensare che eri mia e dopo un poco non si sa. Ti prendo sulle scale, ti prendo in ascensore e su questa mia nave che affonda glu glu. Maria, Maria, Maria, ti ha messo su una via. Maria, rosa mia, vita mia, che valore più non hai. E provo a pensare che non è colpa mia, e provo a dire che cosa vuoi che sia, e provo a predicare il mio Vangelo qua e là, e provo a dirti che non sei stata tu. Maria, non andar via, la colpa è stata solo mia. Maria, Maria, tu ridammi la gamba mia. Oh Maria, oh Maria, tranquilla che la colpa è solo mia. Maria, non andar via, la colpa è stata solo mia. Maria, Maria, Maria, ti ha messo su una via. Maria, rosa mia, vita mia, che valore più non hai. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, su una via. Maria.